Non abbiamo il tempo, noi siamo nel tempo. Albert Mayer. Bene, tornati in diretta, avete sentito due Bolzanini doc. Eh sì, Moroder, che abbiamo già presentato nella prima parte della puntata, abbiamo ovviamente collegato il secondo frammento che era stato purtroppo tranciato dall'ingresso di Radio Popolare Network, dunque ricordiamo ancora per coloro che si fossero messi solo adesso in ascolto di 451 frammenti sonori, che stasera noi, i soliti pazzi della domenica notte, stiamo costruendo un percorso sonoro dedicato al tema arte catastrofe. Abbiamo iniziato con Klaus Schulze per poi arrivare a Faust, attraversare l'industriale con Cabaret Voltaire, arrivare poi a Giorgio Moroder, Bolzanino come il grande altro compositore in musica contemporanea ed elettronica, Albert Mayer, che appunto abbiamo voluto di nuovo omaggiare con questo piccolo spot che ha girato per un po' anche in radio, oltre che a 451 frammenti sonori, perché ci sarà appunto un appuntamento a Bologna martedì. Sì, appuntamento alla Galleria Neon nei pressi di Via Lame, sì, subito immediatamente dopo alla porta, Via Zanardi, la prima sinistra, non vi perdete, mi raccomando, intorno alle 20 appunto di martedì 14 Albert Mayer presenterà appunto la sua opera Noi non abbiamo il tempo, noi siamo nel tempo, che abbiamo ascoltato anche come spottino appunto, così chiamato in maniera semplicistica, poi appunto faccenda più grossa che vedrete, e tra l'altro sarete anche dentro la stessa opera, perché è una sorta di opera aperta dentro lo spazio della Galleria Neon, dove Albert infatti ci farà partecipare, chiaramente noi di 451 ci saremo, e come ci farà partecipare a questa composizione aperta legata allo spazio-tempo, quindi una sorta di tavola rotonda dove le sonorità, le parole eccetera eccetera verranno poi appunto composte dentro lo spazio-tempo dal grande compositore Bolzanino, che è stato anche ospite appunto qua a 451 frammenti sonori, ma probabilmente questo non è molto importante, è importante appunto che la composizione e le idee geniali di Albert ancora continuino, e appunto sarà a Bologna il 14 maggio, martedì, dentro appunto la Galleria Neon, con noi presenti, quindi ci potete anche vedere, non so, potete anche toccare Eliseo ad esempio, comunque volete. È il 18 mi sa, perché il 14 è il 18, sì, vabbè. Era per vedere se stavi attento. Vabbè, se vuoi tornare in dato che noi non abbiamo il tempo, noi siamo nel tempo. Sì, magari inventiamo insomma una sorta di macchina del tempo. Dopo poi la troveremo anche una sorta di macchina del tempo. Okay. E quindi dall'incontro un po' anche assurdo tra Moroder e Albert Mayer, se non per il fatto che tutte e due con due modi assolutamente diversi si approcciano all'elettronica, comunque insomma hanno sicuramente in comune, oltre che l'elettronica, anche la terra d'origine, appunto Bolzano, tra l'altro non in termini catastrofisti ma in termini celebrativi. In agosto a Bolzano ci sarà la celebrazione del nostro Giorgio nazionale, Giorgio Moroder, per i suoi 70 anni. Ci sarà questo mega concerto. 70 anni, eh? 70 anni, infatti. È un Moroder appunto in piena distopia di Einzelgänger, che poi lo porterà verso i lidi di Midnight Express, film cult della fine degli anni 70, dove appunto esplorerà anche quella utopia nera di Alan Parker, tuffandosi appunto in un mondo fatto di follia e di immaginari assolutamente neri e anariti anche da una situazione sociale e politica, quella turca della fine degli anni 70, con un giovane che viene preso per spaccio, un giovane americano, dove si trova veramente ad affrontare una sorta di odissea nera tra carceri, manicomi criminali, eccetera eccetera, e quindi una sorta di catastrofe quasi annunciata da un senso del ridicolo, che poi appunto sfocerà invece in una vera e propria situazione da incubo terminale. E se Moroder ha aperto sicuramente la strada a certe elettroniche anche di taglio catastrofista, non a caso citato dal grande John Savage come uno dei riferimenti anche di certe industrial music, certo Moroder, poi altro Moroder sarà legato alla disco e quindi farà ben altre cose, anche se la faccenda tecnologica sarà sempre ben presente nelle musiche. Sicuramente Moroder darà una sorta di grande appiglio tecnologico, oltre che insomma filosofico, musicale, a Crisma, che catastroficamente sono arrivati fino a Chiambretti Night, forse figli e vittime delle stesse catastrofi che hanno sonoricamente attraversato la fine degli anni 70. Probabilmente sì, anche se devo dire che quel poco che ho visto di questa trasmissione di Chiambretti stanno anche in una dimensione un po' paradossale, anche un po' parossistica all'interno. Comunque riproducono anche il loro percorso musicale, vabbè, in una fase ormai da vecchi, ma si prendono anche in giro, sì, parecchio, infatti, dunque c'è grande autoironia, sì. C'è grande autoironia, dunque sicuramente non mi sembrano completamente perduti, ecco. No, sicuramente, però recuperando i grandissimi Crisma di Chinese Restaurant 1977, e qua sottolineiamo, sentite che roba usciva non soltanto da Giorgio Moroder ma anche da Crisma, appunto da quell'Italia catastroficamente proiettata verso una tecnologia assolutamente da futuro nero, ma da grande futuro anche. Crisma. È too late to tell me, oh, oh. È too late to tell me, oh, oh. Thank you. grandissimi crisma che non vengono mai ricordati abbastanza per le loro sperimentazioni elettroniche, veramente notevoli. Anticipavano, unendo appunto quel gusto decisamente tecnologico, futurista di Giorgio Moroder a quelle atmosfere mitteleuropee che alla fine degli anni 70 portavano dentro le musiche delle catastrofi quella crisi economica nata dallo shock petrolifero, se di nascitura possibilità si deve trattare, probabilmente insomma di effetti più che di nascita, e crisma collegandosi appunto a una sorta di cosmicità poi virata su Cold Wave, quindi la wave del periodo guerra fredda e della grande crisi economica dalla metà degli anni 70 fino alla fine, poi per arrivare appunto ai primi anni 80, l'ascesa di Reagan e la Thatcher, che con il loro paradigma neoliberista e riportarono e ripomparono l'economia capitalistica. Però insomma quegli anni lì furono anni di grande crisi, tant'è che c'era una sorta filosofia del negativo, del distopico in tanto cinema ma in tante musiche. Killing Joke aspettavano la fine del mondo da un momento all'altro, e Jazz Coleman se ne andò in Irlanda a aspettarla. Per Eubu parlavano di fine del mondo a giorni intorno al 78-79, i Divo parlavano di devoluzione e quindi di un'umanità degradata alla demenza, varie possibilità date a una sorta di catastrofe perenne che forse immaginando un film di Godard come Alphaville probabilmente è avvenuta e non ce ne siamo accorti. E quindi siamo figli della catastrofe, post-catastrofisti e post-catastrofe, probabilmente ci troviamo qua a parlare, probabilmente già infatti infetti da quello che è avvenuto 30 anni fa. Eh sì. Potrebbe essere appunto un immaginario che è stato comunque dentro appunto Alphaville di Godard e anche dentro un suo episodio strepitoso in Ropopag, una cosa del genere, non ricordo bene, comunque insomma l'unione tra Rossellini, Pasolini, Godard e Gregoretti dava appunto il titolo del film, poi lo cerchiamo, una cappelletta, vabbè, scusatemi, perdonatemi, e Rogopag, ecco l'ho detto. Ah, ecco, vedi, sì, vabbè, non so ricordare. Mi sono magnato un po' di roba. Mi sono magnato un po' di roba. Hai mischiato un po' di carte in tavola, un po' di catastrofi. Sì, un po' di catastrofi anche a livello vocale e di lettere. E di lettere? Di lettere, di numeri, no. Di numeri anche, visto che si tratta di tanta elettronica, di sinte eccetera eccetera. Ricordiamo anche per ultimo, a proposito, bravo, di numeri, bravo. Che Crisma parteciparono non accreditati, poi insomma nel corso degli anni si è scoperto anche alla colonna sonora di Blade Runner, appunto partecipando con Vangelis a un'altra immagine distopica, appunto di futuro, un'altra immagine catastrofica. Parlando di uno che le filmava varie catastrofi, poi viaggi lisergici assurdi nello spazio, John Carpenter, musicista oltre che soprattutto conosciuto come regista, autore cinematografico, è diventato anche un musicista di culto, non a caso sono uscite parecchi compilazioni di sue colonne sonore dei film dagli anni 70 fino ad oggi, ne sono uscite veramente diverse, e noi abbiamo cercato di prenderci questo John Carpenter, che comunque ha avuto sempre questa grande maestria nell'uso soprattutto dei sintetizzatori, la sua capacità comunque di creare dei suoni molto coinvolgenti, assolutamente azzeccati, soprattutto per l'atmosfera dei film, che spesso appunto li ha sviluppati su terreni catastrofisti, mischiando, utilizzando come gran parte di quella generazione di registi americani la fantascienza e l'horror come elementi ovviamente di una lettura politica molto molto critica e anticapitalistica del sistema americano, utilizzando appunto i canali che venivano tra virgolette un po' tralasciati e permessi ai registi usciti soprattutto dalla tragedia della guerra del Vietnam, tant'è che molti di questi film sono dei chiari riferimenti a quell'esperienza. E John Carpenter l'abbiamo già utilizzato nel passato di 451, mi ricordo una trasmissione proprio dedicata alle musiche per i film, dal grande capolavoro Dark Star, che poi è stato il suo primo lavoro uscito in termini proprio generalizzati come produzione importante. E invece stasera abbiamo, ovviamente utilizzando anche la tematica connessa alla catastrofe, un film sicuramente catastrofista come Fuga da New York, primi anni 80, e abbiamo appunto estrapolato il brano strumentale, la colonna sonora del film. C'è anche oltretutto un brano vocale connesso a Fuga da New York, però abbiamo selezionato ovviamente la parte strumentale, dove questi synth portano verso appunto la lettura, quasi la musica della catastrofe rappresentata in questo grande film dei primi anni 80. Dunque, John Carpenter, Fuga da New York. Attention, you are now entering the debarkation area. No talking, no smoking. Follow the orange line to the processing area. The next scheduled departure to the prison is in 2 hours. You now have the option to terminate and be cremated on the premises. If you elect this option, notify the duty sergeant in your processing area. Thank you. John Carpenter è stato unito a Dr. Who dopo appunto Escape from New York, appunto Fuga da New York, storico film del 1981. Abbiamo voluto fare un salto temporale, visto che si parte addirittura dal 1963 con lo straordinario Dottor Who, scenari assolutamente apocalittici, dentro però una sorta anche di tentativo sperimentale sia a livello musicale sia a livello di struttura filmica, di creare assolutamente un immaginario nuovo legato alla fantascienza, non più la guerra fredda e gli anni 50, il mostro proveniente da un altro pianeta che rompe, spacca e fa paura a tutti, ma qualcosa di più complesso in termini di riferimenti sociali, filosofici e una fantascienza che appunto diventa anche critica, anche con appunto tutto quel bagaglio di oscurità che fa di Dottor Who poi una delle cult serie di sempre. Dottor Who poi l'abbiamo voluto inserire dentro Arte e Catastrofe di 451 frammenti sonori, soprattutto perché in Italia poi divenne famoso proprio negli anni 70, quando la serie si trasformò in serie colorata, le prime appunto puntate degli anni 60 sono in bianco e nero, e poi appunto il mondo catastrofico, i mondi catastrofici di Dottor Who appunto furono portati in Italia anche a colori, seppur poi delle repliche furono anche fatte di quelle in bianco e nero, il famoso personaggio protagonista con questa sciarpetta. E si è trattato un po' anche di avanguardia, BBC trattava appunto la faccenda sia in termini di avant musicali sia avant in termini filmici, come d'altronde trovando poi Tracy Lee Peterson abbiamo trovato un compositore di computer music appunto. Eh sì, che abbiamo collegato anche per fare appunto questo stretta congiunzione con certe musiche d'avanguardia che passavano attraverso anche le musiche filmiche, da film o da serie televisiva, e la stessa cosa è successo appunto con Tracy Peterson, che non è un autore particolarmente conosciuto, anche se fa parte poi di questa compilazione che ha creato vari cofanetti, Computer Music Horrors, in questo caso il volume 7 della Vergo, etichetta fondamentale sulla scena dell'avanguardia e sull'elettronica, un lavoro del 1978 che apre, possiamo dire così, il settore connesso alle musiche filmiche che abbiamo voluto creare insieme appunto a John Carpenter e a Dottor Who. E questo trittico un po' anomalo, utilizzando appunto un autore non conosciutissimo della scena d'avanguardia, che però si avvicina molto a certe sonorità scure, apocalittiche, catastrofiche, insieme invece a questi synth piuttosto scuri, inquietanti e terminali, utilizzati sia nel motivo di Dottor Who, che chiunque penso abbia una certa età, insomma non sia un ragazzetto, se lo ricorderà, perché tutti se lo ricordano, insomma, tra i 30 e i 50 anni in questa serie. È iniziata la nuova. Sì, è partita la nuova serie che dal 2005 addirittura, dunque dal 1963, rischia di essere veramente una serie infinita. E dopo Peterson, Carpenter e Dottor Who, in particolare modo, ricordiamo anche che fa parte poi del discorso Mute, questo lavoro di Dottor Who, e andiamo invece ad aprire la parte dedicata un po' alla wave che tanto alla no wave che tanto ha dato alla dimensione catastrofista e apocalittica. In particolar modo partiamo da un grande personaggio che noi di 451 siamo anche parecchio legati, Rhys Chatham, con i lavori degli anni 70. Inizia Chatham dopo il primo periodo legato alle sperimentazioni minimaliste da cui lui aveva tratto linfa vitale, crescita musicale, avendo dei grandi maestri appunto nel terreno minimalista. Inizia a conoscere anche casualmente l'utilizzo di una chitarra elettrica parecchio distorta da un concerto del 1976. Da lì si innamora e pensa, studia l'ipotesi di costruire una sorta di massimalismo musicale attraverso l'uso di chitarre e costruisce appunto i primi progetti intorno al 1977, e uno di questi è Guitar Trio del 1977, dove tutta l'aspetto catastrofista e apocalittico della scena e del suono chitarristico riesce ad esprimere lo stesso Chatham. E ci andiamo proprio a pescare questo lavoro del 1977, Guitar Trio. We'll be right back. Thank you. rumori che provengono da pianeti assolutamente devastati, storpiati da strani esseri postumani, post tutto, probabilmente con i Chrom si va verso quella immaginazione assolutamente perfida, quei Dalek di Doctor Who, esseri terrificanti per l'umanità, dentro le visioni assolutamente nere di Chrom si trasformano veramente in esseri informi da poteri assolutamente apocalittici, più che catastrofe. Probabilmente con Chrom si va dentro una sorta di tunnel nero, un tunnel cosmico nero, appunto una sorta di viaggio da incubo dentro gli Stooges portati a male, metallizzati, con dialettica contro Ben Gristol, Cabaret Voltaire, con la scena Industrial che appunto vedeva Chrom per certi versi anche protagonisti, anche se pure in America, quindi lontano dalle terre appunto di sia TG che Cabaret Voltaire. Chrom che però appunto radicalizzano una sorta di rock portato alle estreme conseguenze, dialettizzato con una sorta di impossibile musica metallica elettronica, quindi appunto la dialettica con tutta l'industrial music inglese, e poi un suono che va appunto quasi a trasferirsi su un futuro che è degli americani degli anni zero sicuramente, dove appunto Chrom vengono presi come padri dai vari Wolf Eyes, Sightings soprattutto, che l'altra sera, l'altra domenica abbiamo ascoltato appunto dentro 451 rumore 00, e dentro poi varie catastrofi musicali, e sono veramente papà in questo suono assolutamente defagrante, conflagrante e catastrofico, apocalittico. E da Chrom, un altro gruppetto insomma che non è che la passasse in alto leggero. No, no, anche lui parecchio catastrofista, parecchio apocalittico. Parliamo di Dark Day, formazione della Cold Wave degli anni Ottanta. Il loro disco d'esordio, almeno sul piano dell'importanza, Exterminating Angels, che è già tutto dire, insomma, gli angeli, lo sterminio degli angeli. In questo senso la Last etichetta che l'ha prodotti l'ha cercata appunto di lanciare all'interno appunto di tutta questa dinamica piuttosto catastrofista, e li abbiamo ovviamente inseriti nel passaggio che abbiamo fatto dedicato alla wave, alla new wave, a tutto l'universo che iniziava tra fine 70 e inizio 80, e che leggevano un po' l'aspetto catastrofista che era già emerso negli anni 70, ma in un'ottica ancora più devastata e priva di ogni possibilità di fuoriuscita. In questo senso la definizione anche di catastrofe che abbiamo dato nella prima parte della trasmissione calza a pennello, e a questo punto ci andiamo ad ascoltare da Exterminating Angels la traccia che a noi ci è sembrata più rappresentativa all'interno di stasera di Arte Catastrofe. Thank you. picture and close the lid with a bang. He felt the angry waves rush at him as though they would tear him from his seat, and great sheets of stinging spray were flung in his face. warm. Leatherette, warm. Leatherette, see the breaking glass in the underpass. See the breaking glass in the underpass. Warm. Leatherette, warm. Leatherette, warm. Leatherette, warm. Leatherette, hear the crushing steel, feel the steering wheel. Hear the crushing steel, feel the steering wheel. Warm. Leatherette, warm. Leatherette, warm. Leatherette, warm. Leatherette. Warm. Leatherette, warm. Leatherette, warm. Leatherette, warm. Leatherette, warm. Leatherette, melts on your burning flesh. You can see your reflection in the luminescent dash. Warm. Leatherette, warm. Leatherette, warm. Leatherette, warm. Leatherette, a tear of petrol is in your eye. The handbrake penetrates your thigh. Quick, let's make love before you die. On warm. Leatherette. On warm. Leatherette. Warm. Leatherette. Warm. Leatherette. Warm. Leatherette. Warm. Leatherette. Warm. Leatherette. Join the car crash set. E abbiamo ascoltato adesso ancora in sottofondo un capolavoro da Esser Tarrazio, la formazione di Manchester, formazione assolutamente fondante nella scena wave, ma non solo, escono diciamo anche da tutta la scena post-punk con delle atmosfere che poi sfociavano chiaramente anche con influenze funk e in alcuni casi anche jazzate nel loro percorso musicale. Una formazione molto particolare che ha caratterizzato gli anni 80 con un marchiatura potremmo dire veramente black in alcuni album, dove il funk emergeva in maniera molto interessante, mischiato ovviamente alla loro origine punk e post-punk e ovviamente chiaramente attraversata dal periodo della wave degli anni 80. I loro dischi mantengono sempre questo alone piuttosto scuro, opaco, farraginoso e inquietante, come nel brano che ascoltiamo adesso, una tribalità quasi a ripercorrere, a ritrovare le origini, gli aspetti più ancestrali, riportati però in un'ottica appunto quasi distruttiva, apocalittica, catastrofista. È il disco in questione che mantiene di più diciamo gli elementi connessi alla trasmissione di stasera, altri sono diciamo più aperti a dimensioni nere e tribali, ma in un senso anche più aperto. Twitch è il disco del 1981 che caratterizza sicuramente l'inizio degli anni 80, dunque del percorso di Esser Tarrazio, che si sposterà intorno all'83-84 verso dimensioni sicuramente più colorate di black. Qui si sente ancora chiaramente l'influenza post-punk e anche industriale per certi elementi, perché questo è un brano che indubbiamente potrebbe essere collegato tranquillamente anche a formazione degli 80 industriali, e basta citare uno che è passato nella prima parte, cioè Cabaret Voltaire, in queste dimensioni, ma non solo insomma. E questa formazione ha sicuramente segnato una decade importante, quella degli anni 80, con queste caratteristiche piuttosto nette e chiare che poi si svilupperanno anche negli anni successivi con grande capacità creativa. Twitch, per aprire diciamo il finale del nostro percorso, ma prima abbiamo anche ascoltato qualcos'altro, non mixando. Sì, parlando poi di quel periodo storico, sì, stiamo parlando di decade 80, ma facciamo una grande differenza tra quelli che sono gli 80, soprattutto quella metà degli anni 80 che si inizia a far partire dall'83, periodo appunto della chiusura della New Wave come stagione creativa, e arriva appunto intorno a 87-88, quando poi sfocerà tutta la faccenda wave un po' glacializzata e patinata per molti aspetti, commercializzata appunto dall'83 fino all'87 più o meno. E si ripartirà appunto con le faccende acid e con la nascita appunto di varie techno di ambito wave, perlomeno per quanto riguarda l'Europa. Trattando appunto del periodo che ci interessa in particolar modo questa sera, ovvero i 70, con anche quel cavallo particolarissimo che sono i primi mesi degli anni 80, appunto per arrivare come massimo questa sera arriviamo mi sa all'81 come punta massima degli anni 80, quindi siamo ancora in aria decisamente fine 70, con tutto quel catastrofismo legato al punk, all'industrial, alla new wave, ad esempio attraversata da Dark Day prima, da Res Chatham, seppure con differenti metodologie musicali. E con la new wave radicale si va anche a trovare Normal, Daniel Miller, prima appunto nella prima parte abbiamo detto che avremmo omaggiato il boss, se così si può considerare, della Mute Record. Daniel Miller appunto alla fine degli anni 70 creerà Normal, progetto brevissimo ma con Warm Letteret veramente si toccherà all'apice di quel tecnopop virato sulla catastrofe. Warm Letteret è un viaggio angoscioso e apocalittico dentro l'incidente sociale, l'incidente musicale anche, che appunto attraverso un tecnopop deviato e deviante, porterà appunto varie genie mutanti, come appunto anche quella di Certa Razza e come anche quella di Human League, che alla fine degli anni 70 con loro Reproduction, con loro Dignity of Labor, elaboravano un discorso di tecnopop anch'essa assolutamente deviante e catastrofista. E andiamo a prendere il loro circo di morte, Circus of Dead, quasi a segnare una sorta di circolarità e di circo dei mostri capitalistico. Circus of Dead è proprio questo viaggio dentro questa, questo gioco che si trasforma in mortificante. Reproduction, appunto, riproduzione capitalistica, riproduzione sonora, tecnologica, mortificata da parte appunto di questi genialodi di Sheffield, che poi si daranno a ben altra musica, ma quella appunto rappresenta la patinatura degli anni 80, che oramai è fuori dalla catastrofe, o forse è effetto definitivo di forse quella. L'effetto, secondo me, sì. Circus of Dead. Well, in just a few moments we're off to Hawaii to join Steve McGarrett and the team for tonight's adventure. That forges their union is a substance known only to one. To the clown it is known as dominion. It's a secret that he'll give to none. The drug which gives the clown power means his circus can never be stopped, and his dream can go on unhindered till the last human being has dropped. Go away, please let us be. I've known you. una goccia digitale che esprime il declino dell'Occidente. Decline of the West era proprio il pezzo di British Electric Foundation, dopo Human League, una parte dello storico combo che tra l'altro, come Future ha visto, anche protagonista Eddie Newton. Ve l'abbiamo ogni tanto raccontata la storia di Future, Human League e poi Beth. Comunque più o meno questa è la genia, anche se poi ci sono veramente un po' di ingarbugliamenti. Voi tenete presente comunque che Beth con Music for Stowaways, prima uscito come cassetta, poi come vinile, e siamo intorno al 1981, quindi un pizzichino dopo a Reproduction di Human League, che era il primo disco. Poi nell'80 uscirà anche Travelog. Invece il materiale dei Future lo trovate sparso tra vari 45 giri stampati come Human League B-side, e poi soprattutto, insomma, come ristampa in CD The Golden Hour of Human League, dove ci sono appunto pezzi dei Future. E così abbiamo compiuto questa viatico, questa via crucis dentro il suono della catastrofe, dentro l'arte e catastrofe, la prima parte legata appunto agli anni 70 e primissimi 80. Siamo arrivati praticamente nell'81 come punta massima di una musica che comunque chiaramente era ancora decisamente dentro quelle visioni apocalittiche, catastrofiche d'arte musicale chiaramente dei 70. Eh sì, siamo arrivati alla fine. Sicuramente inizieremo anche per le prossime volte a portare avanti questo discorso storico, ritorneremo dunque su questo argomento, anche perché i tempi ce lo consentono in termini proprio storici. Dunque la catastrofe che sta dietro l'angolo, dunque noi ci marceremo, ci sguazzeremo e vedremo cosa succederà. Chiaramente ci sguazzi, ma ci secondo sguazzi, me è già successo, non ce ne siamo accorti. Io può darsi, continuo a dire questa cosa, può darsi, però insomma ci stiamo ancora dentro, ecco. Cioè, è già successo ma ci stiamo ancora dentro. In ogni caso non ne siamo usciti, quello sicuro, guarda. Forse andremo ancora più giù. Comunque noi ovviamente vi aspettiamo per 451 frammenti sonori domenica prossima, sempre alle 23:30 circa. Vi ricordiamo ancora l'appuntamento alla Galleria Neon martedì sera intorno alle 8 per l'aperitivo acusmatico, insieme a una performance e una sperimentazione, una tavola rotonda con Albert Mayer, e dunque ovviamente sempre a ridosso di Porta Lame, di Via Lame. All'inizio di Via Zanardi, la prima sinistra. Vabbè, insomma, troveranno da Galleria a Galleria Neon, se la vanno a cercare se sono veramente interessati. Comunque, in ogni caso, un saluto da 451, buona nottata e vi aspettiamo martedì e poi ovviamente come al solito domenica. Un saluto da Max Macchia e da Eliseo Scarpa. Ciao, fate i bravi.